questa trasmissione, secondo me, non è tutti i convocati, ma è i convocati. Significa che parlate di Roma, Napoli, Juve, Inter, ma della Fiorentina non parlate mai, mai, mai, mai, senza polemica, eh. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Essere un'azione pericolosa questa dell'Alessandro, non è riuscito però a tenere il pallone ancora, il cross dentro, colpo di testa, sempre lui, Bocalon in vantaggio l'Alessandria, 2-1, situazione ribaltata, incredibile qui al picco, Bocalon, grandissimo gol. Realizzando il nostro sogno, quello di andare avanti in questa competizione, considerando che il campionato resta sempre il nostro primo obiettivo, ma visto che ci siamo, dobbiamo andare avanti il più possibile anche in Coppa Italia. In questo momento io, oltre che ringraziare questa società, questi ragazzi, per me è una serata, ripeto, meravigliosa, si sono spenti i riflettori tanto tempo fa, io vorrei riaccenderli dedicando questa vittoria a un evento che invece mi ha fatto vivere la giornata peggiore della mia carriera sportiva. La dedico a Pier Mario Morosini questa vittoria. Ciao a tutti, anche Pierluigi Pardo. Come qui, come va? Benissimo. 800 24 00 24, perché De Luca mi ha messo qua il contatore delle telefonate. Ah, sì, abbiamo una gran voglia di parlare con gli ascoltatori. Beh, oggi, sì, anche perché sì, i temi sono millanta dopo questo. Bello millanta. Ti piace millanta? Sì, dal verbo millantare, sì. Dopo questo weekend di campionato e dopo che, vedi, anche in Italia abbiamo la nostra bella favola come quella del Calais, ti ricordi, ogni tanto in Inghilterra, in Francia, in altri angoli d'Europa. Succede, adesso abbiamo i grigi che tornano. Che già una squadra di calcio che ha la maglia grigia già è divertente, no? È già letteraria, già è bianco e nero, nel senso proprio che ci porta. No, ma poi bellissima, bellissima storia. E devo dire, l'Alessandria, io ho visto le partite, ho visto Genoa-Alessandria e poi insomma ho intravisto ieri, perché chiaramente erano gli ultimi preparativi di Tiki-Taka, la partita di ieri, insomma, mi sembra, anche contro il Palermo, che abbia assolutamente meritato e giochi un calcio veramente bello, veramente positivo. E adesso sì, poi c'è questo incrocio con Gianni Rivera. Certo, no? C'è l'incrocio con Rivera, c'è la sfida col Milan, c'è la prospettiva europea. Ragazzi, non è più così. Non potrebbe giocare in Europa. Assolutamente sì. Come parametri, come stadio, eccetera, eccetera. Come parametri, come se si qualifica attraverso la Coppa Italia, assolutamente sì. Come stadio giocherebbe a Torino, probabilmente. Giocherebbe naturalmente a Torino. O a Genova, non lo so, però insomma ci può stare. Di Gianni Rivera c'è l'auspicio, che è questo. Un po' di attenzione verso l'Alessandria ce l'avrò certamente, anche perché una squadra che in questo momento, in questa categoria, così lontana dalla Serie A, e se dovesse fare un altro balzo sarebbe un fatto eccezionale, quindi bisogna guardare con attenzione, insomma, tutto sommato. Se il Milan arrivasse terzo, penso che potremmo fare uno scambio con la Coppa Italia. Quindi Rivera è per una soluzione democratica, sì, Alessandria, sì. Coppa Italia, Milan. Ma Rivera di Alessandria, ma giustamente di Alessandria, perché insomma è di Alessandria, perché quella è la sua origine, perché con tutto il rispetto per le sue due squadre del cuore, questa per l'Alessandria è infinitamente più importante, più letteraria, più sorprendente. Il Milan giustamente deve pensare sì a questa Coppa Italia, ma deve pensare ad altre coppe, ad altre cose, importanti, sì. E ha già vinto tante in questi anni. Io penso che Rivera tifi Alessandria legittimamente. partita il 20 di agosto contro l'Alto Vicentino, l'Alessandria. Tra l'altro qualche anno fa ci fu anche un Milan-Novara di Coppa Italia, con Novara che riempì lo stadio di San Siro, poi Novara finì in Serie A. C'è stato Inter-Trapani, ci sono diversi incroci. Senti, ma come si è comportato il professor Cassano ieri sera a Tiki Taka? Bene, mi è sembrato più... Io vedo un WhatsApp. Ciao Pardo, non ti ha chiamato Zenga questa mattina? Ah no, no, ma è una cosa meravigliosa. Anzi, salutiamo anche Ivan Zazzaroni, col quale mi sono messaggiato stamattina. È che, vabbè, ce l'abbiamo il sonoro di Cassano? Ce l'abbiamo, quello facciamo sentire. La differenza fra Montella e Zenga? Ce l'abbiamo, sì. Sentiamo. Partiamo da qua, partiamo. Il signor De Luca, mica, Tiki Taka, mica. Fra Montella e Zenga, che cosa è cambiato? Ma... è come giocare a calcio fra me e te. Grazie. Ecco. Beh, sto Perone Pardo contro Cassano. E pare che oggi Zenga abbia fatto la battuta e dice: ma io in effetti ho allenato Pardo, nel senso che è talmente grasso che, che praticamente, quindi insomma, no, devo dire, ironia da parte di tutti e due, però il concetto mi sembra... Giusto per la cronaca, Arrigo Sacchi intervenuto a questi microfoni domenica in tutti i convocati weekend, ha affibbiato a Pardo un soprannome che si portare dietro per tutta la vita, almeno Stoperone Pardo. Ragazzi, ci fermiamo per il traffico, poi parliamo di Inter, parliamo delle deluse oggi, Inter-Roma, Fiorentina, di quelle che sono cadute dal treno scudetto, di quelle che stanno aggrappate lì con le unghie, ma parliamo di quello che volete, sostanzialmente, come sempre, 800 24 00 24, perché il massimo piacere è proprio parlare con voi. Tutti convocati. Convocati. Possibilità per l'Inter, D'Ambrosio che va alla cross, la mette in mezzo, colpo di testa, palo! Dal fondo Pia Pianini la mette in mezzo, Miranda, palo sulla parata di Reina! Beh, te ricordi bene, no? Napoli in campionato, ultimi istanti, e questa sera remake in Coppa Italia, un palcoscenico diverso naturalmente. C'è un po' di turnover da una parte e dall'altra, soprattutto da parte del Napoli. Secondo me al Napoli non, la butto lì, non farebbe male uscire in maniera decorosa, onorevole, magari. Sono assolutamente contrario a questa contrario. La Coppa Italia, non, allora, la Coppa Italia, che è meno prestigiosa dell'Europa League, sicuramente, ma è anche nettamente, anzi direi forse infinitamente meno affaticante. Cioè, sì. La Coppa Italia sei già lì. Sì. Mancano quattro partite, cioè vincendo quattro partite se la vinci l'Europa League o la Champions, ovviamente, ma l'Europa League addirittura un turno in più, invece è ancora una cavalcata, sono ancora in 32. No, questo è chiaro. Se il Napoli vince stasera con l'Inter, poi è una semifinale, quindi certamente non facile contro Juve o Lazio, però ecco, no, veramente io penso invece che sia una competizione che il Napoli debba... Ma tutta la vita, anche perché darebbe un segnale forte se riuscisse a battere con convinzione stasera l'Inter, le darebbe secondo me anche dal punto di vista psicologico un'ulteriore bastonatina. Sì. E lo stesso al contrario, l'Inter deve provare a passare il turno, secondo me, per togliere molte delle certezze, degli entusiasmi che il Napoli... Per me la partita stasera è importantissima. E l'Inter è la chiave di questo momento, secondo me. Salutiamo lo zio Beppe Bergamo. Ma senz'altro. Ciao zio! Oh, ciao Carlo, ciao Pier. Buongiorno. Come va? Come va il signor Bergomi? Come sta? Sto bene, Pier. Così, volevo dare volevo fare una cosa un po' da cazzaro, così. Per cominciare, chi vince stasera? Cioè, soprattutto a chi serve di più? Chi metterà sul piatto più motivazione? Ma io sono d'accordo con te, tutte e due. Perché l'Inter, come è strutturata come squadra, può dar fastidio a Napoli, quindi può andare a Napoli a vincere, anche se non sta attraversando un grande momento. Dall'altra parte, visto che la Coppa Italia è la manifestazione più ingiusta che abbiamo, secondo me, insomma, favorisce solo le grandi squadre, come dicevi tu, sono solo poche partite per arrivare in fondo, a questo punto insomma anche il Napoli deve cercare di giocarsela al meglio. Senti, ma l'interrogativo del momento è: posto che l'ultimo weekend ha disegnato un'altra faccia del campionato, cioè un duello tra Napoli e Juventus, posto che Roma e Fiorentina sono cadute da quel treno, l'Inter è ancora aggrappata secondo te? E se sì, come può rimanere aggrappata? Uscendo da questo momento buio, perché una crisi la passano tutti, Beppe. No, è vero, in questo momento è il momento di crisi per Inter e Fiorentina. L'Inter può rimanere aggrappata con le proprie certezze. E io dico questo a Mancini, nel senso che Mancini ogni tanto arriva a un certo punto e poi non valuta più bene i giocatori. Quindi lui aveva delle certezze, andare avanti, momenti di crisi poi passano, bisogna saper tenere duro in questo momento e dare fiducia e certezza ai giocatori che ti hanno portato fino lì, senza stravolgere sempre tutto, perché il mercato di gennaio tante volte è ingannevole, perché inserire dei giocatori all'interno di un gruppo magari dove vanno bene non è sempre facile. Quindi io dico questo, l'Inter ha una rosa adatta per rimanere attaccata fino alla fine. Sì, io... Il problema è che se comincia a prendere dei gol con una media realizzativa di 1,28 mi pare, allo scudetto non puoi mai arrivarci. Sì, sì, insomma, mille volte, alcune cose dell'Inter non le ho mai capite, però ecco, anche parlando proprio con lo zio spesso, poi mi fido dei numeri, che comunque rimangono numeri molto importanti, mi fido del talento di questa squadra. Mi sembra che però quella tendenza, diciamo, al miglioramento, come le previsioni meteo, che c'era stata oggettivamente, perché l'Inter aveva vinto di forza una serie di partite fra novembre e dicembre, fino a Udine, ancora prima Inter Frosinone, aveva dato una sensazione di essere squadra, anche a Napoli nella sconfitta aveva dato una dimostrazione comunque di grandissima reazione. Mi sembra che quello sviluppo, quella sensazione di una squadra che stesse sbocciando, si sia un po' interrotta, e mi sembra soprattutto che ci siano oggi ancora troppe domande. Cioè Mancini per quattro mesi ha surfato, ha cavalcato le onde del dubbio, tenendo tutti sulla corda, cambiando continuamente formazione, ne ha tirato fuori il meglio. Oggi forse comincia a essere un po' il tempo delle scelte, poi, no? Pian, mi ha colpito... Cioè, qual è la coperta di Linus oggi dell'Inter? C'è Jovetic o non c'è Jovetic? Bravo, c'è Jovetic è la grande delusione fin qui della stagione, era l'uomo che doveva produrre l'aumento di watt, no? Sì. Il trasformatore di voltaggio e soprattutto ho detto ieri Cassano in una maniera colorita, però l'oggettivo, arrivano veramente pochi palloni ai Cardi. Sì. E Cardi non fa tantissimo per andarseli a prendere. No, ma poi mi ha colpito, zio, una cosa che ha detto Sacchi: l'Inter è una squadra di specialisti. Di specialisti? Sì. Non lo so, io penso che l'Inter sia costruita anche bene, nel senso che ha una solidità difensiva e davanti ha giocatori, perché lui continua a cambiare? Perché ha tanti giocatori di pari livello e quindi cerca di farli ruotare. Poi ci sono due scuole di pensiero, secondo me. C'è Napoli e Juventus, che tu sai che giocano 4-3-3, 3-5-2, non cambiano mai e hanno delle piccoli cambiamenti in base all'organizzazione della squadra avversaria. L'Inter invece ha cercato sempre di sorprendere l'avversario cambiando spesso anche sistema di gioco e uomini. Fino adesso è andata bene. Io penso sempre che bisogna poi, arrivati a un certo punto, dare un gioco, un indirizzo, un sistema e poi fare dei piccoli cambiamenti. Continuare a cambiare così tanto tante volte togli delle certezze. Per quello dicevo prima, puntare su determinati uomini, anche se magari Jovetic di turno, è vero che non sta facendo bene, però all'inizio volava. Però anche se non fa bene per 3 o 4 partite, diamogli fiducia, perché per mettere in porta i Cardi, Jovetic è l'uomo giusto, è vero che fanno fatica, chiaro, come, ma diamogli fiducia anche quando non fa bene, solo così poi puoi ottenere, perché più giocano insieme più si trovano. Perché hai detto prima che a un certo punto Mancini comincia a non riuscire a valutare bene i giocatori? Perché io faccio sempre due esempi. Allora, quest'estate Nagatomo e D'Ambrosio dovevano andare via a tutti i costi, poi adesso sono i titolari. Poi, non so, Perisic gioca per 10 partite e poi dopo sparisce per poi rientrare. Allora, queste cose qua dico, dopo 20 partite tu devi avere delle idee chiare. Questo io devo dire, insomma, soprattutto sul valutare la qualità dei giocatori che hai a disposizione. Mancini è il numero uno, nel senso, perché ha creato un believe intorno all'Inter, perché quando siamo partiti dall'anno scorso c'è un ambiente che crede in lui, tifosi, società, giocatori. Ecco, l'unica cosa che dico a Roberto, valuta bene chi hai in rosa e cerca di esaltarne le qualità. Fra l'altro insomma, adesso se arrivasse il terzo posto, insomma, sarebbe una stagione clamorosa. Devi considerare il punto di partenza, devi considerare gli investimenti. Cioè io credo che se l'Inter chiude al terzo posto del campionato, che mi sembra ad oggi l'ipotesi più probabile, sono d'accordo, fa un capolavoro. Quindi insomma, credo che poi con gradualità, cosa? Che arrivi terza? No, nel senso, gli investimenti sono stati tanti, Pierre. Sì, sono stati tanti, però, la squadra è forte. Però il punto di partenza, secondo me, insomma, è infinitamente più basso rispetto a quello. Infinitamente, forse no, ma è più basso. Era più basso rispetto a quello di Juve e Napoli, secondo me. Sì, quindi è vero che punto l'Inter non deve smettere bene. Di pensare allo scudetto, non deve smettere di pensare in grande. Bravissimo, questo voglio dire. L'Inter deve sempre porsi obiettivi alti. Io, quando ho vinto lo scudetto, partivo da un quinto posto. La Juventus di Conte partiva da un settimo. Non c'entra quello, perché gli investimenti sono stati fatti e la rosa è buona. E visto il vantaggio che avevi, dovevi essere in grado, adesso io non so, io mi auguro insomma, che l'Inter possa vincere lo scudetto, ma di mantenerlo maggiormente questo vantaggio con una Juventus che era staccata. Questo dico, quindi no, ma certo. È ancora la possibilità l'Inter per certo, però tante volte l'Inter ha vinto delle partite, diciamolo, senza brillare, al di là dell'aspetto estetico, che secondo me è sempre stato un falso problema, perché poi lo sappiamo, d'accordo, che la categoria della bellezza è una cosa e la categoria dell'efficacia è un'altra, quindi si può essere efficaci pure senza essere bellissimi, e questo non è un problema. Però tante volte, onestamente, l'Inter ha vinto per Handanovic, ha vinto per un'intuizione, cioè sono state delle partite, penso a Inter-Roma, penso a Torino-Inter, tutti i gol dei centrocampisti per 1-0, Medel, Condobbia, Melo hanno fatto vincere all'Inter sicuramente delle partite. Sono d'accordo con te che la qualità del gioco, se poi non si alza, capito, è difficile arrivare fino in fondo. Poi detto questo, chi vince ha ragione, cioè il risultato alla fine è chiaro che soprattutto sul medio periodo, quando tu alla fine di un girone d'andata sei comunque in testa alla classifica, te lo sei meritato, poche storie, vuol dire nessuno ti può dire nulla, non può essere solo fortuna dopo 20 partite, quindi la classifica è strameritata. Però se non c'è quello sviluppo di gioco che sembrava potesse esserci fra novembre e dicembre, e secondo me poi è difficile. Però Pier Mancini deve trovare la chiave, perché a questo punto, a 4 punti di distacco dalla prima in classifica, secondo me sarebbe sbagliato, poi lui dirà quello che vuole, però all'interno del gruppo sarebbe sbagliato dire va bene, adesso corriamo per il terzo posto. Ma lui correrà per lo scudetto e fa bene, ma è un fatto di mentalità, è quello che ci ha spiegato lo zio un istante fa. Poi Mancini è un vincente, è bravissimo, cioè nessuno discute questo, però la sensazione è che dal punto di vista tattico invece siamo ancora all'ABC. No, al brainstorming. Siamo ancora al brainstorming. 100 possibilità diverse. Una volta Jovetic, una volta gli Aic. Insomma, alla lunga la mancanza di certezze e la rotazione eccessiva è un segno di debolezza, secondo me. Beh, per finire, Icardi con i suoi limiti tattici, è un problema per l'Inter o è l'Inter ad essere un problema per Icardi perché non riesce ad innescarlo? La seconda che hai detto. No, Icardi è un giocatore vero, a me piace, ha personalità e quindi ha bisogno di essere supportato con un certo tipo di gioco. Se poi tu vai a vedere i suoi numeri, lui non fa quasi mai gol di testa, fa quasi sempre gol di piede, quindi va servito anche con palla a terra. L'anno scorso nel finale qualche palla importante gliela dava Kovacic per mandarlo in porta. Mi viene in mente le ultime partite, magari voi dite contavano poco, però Kovacic questa palla buttata in lungolina in profondità gliela dava sempre con i tempi giusti. Adesso forse manca anche questo tipo di giocatore, però indubbiamente Icardi non è il problema assolutamente, è la soluzione per l'Inter, un giocatore che a me piace molto. Ma addirittura, adesso sembra una bestemmia, un'eresia, ma addirittura Hernanes, ci sono stati un paio di mesi che ha fatto delle cose molto importanti dal punto di vista dei suggerimenti a Icardi, no? Pier, torniamo all'inizio, quello che dicevo, valutare bene i giocatori, perché Hernanes, quando è arrivato Marcini, per 3 mesi non ha toccato campo, poi diventare titolare e giocare l'ultima parte di campionato molto bene. Questo volevo dire all'inizio. Infatti. Grazie Beppe. Grazie a voi, un abbraccio. Beppe Bergomi. Quello che è certo è che secondo me il grande passo avanti dell'Inter rispetto all'anno scorso, come diceva lo zio, è la solidità della squadra, cioè aver comunque costruito un'ossatura. Portiere, 2 centrali di difesa, adesso al di là dell'infortunio di Murillo dell'altro giorno, Medel che è diventato un giocatore importante, un centrocampo muscolare, questa è diventata una squadra molto molto solida, questo non glielo toglie, ha delle caratteristiche, non glielo toglie precise. Nessuno, secondo me per vincere il campionato, per poter puntare a vincere il campionato, serve un passo avanti dal punto di vista del gioco che a novembre sembrava stesse arrivando e che invece nelle ultime 4 partite questo passo avanti glielo può far fare al netto del mercato il talento che l'Inter non è ancora riuscito ad esprimere, cioè in primis Jovetic. Ha ragione Bergomi quando dice che insomma lascialo lì, se sta bene fisicamente lasciagli anche bucare una partita o due, però di questi giocatori in grado di saltare l'uomo e di inventare qualcosa l'Inter ha tremendamente bisogno, perché la fantasia non sta a centrocampo. Assolutamente. Ci fermiamo per la borsa. Poi Francesco Antonello 800 24 00 24 eccezionale. Ecco, a proposito di quello che hai detto prima in radio. Poi hai detto che in Italia... La radio poi si cazzeggia, dai. No, no, sì, sì, sì. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia! Tutti convocati. Non è che mi danno fastidio che si sia espresso in questo modo volesse dire un'altra cosa. Diciamo che si è espresso male in italiano, perché credo che io partite facili da quando ho iniziato a allenare non ho mai avute, sia quando con la piccola preparavo le partite con le grandi che quando ho iniziato a allenare il Milan e ora sono alla Juventus. Quindi credo che c'è stato un pensiero, diciamo un'espressione detta male. Molto rumore per nulla sulle parole di Marocchi, secondo me. E Balotelli che gli dice: tu non capisci niente di calcio. Proprio non capisci un cazzo di calcio. Capisci un cazzo di calcio. E adesso Allegri che gli dice: sa parlare italiano. No, ma secondo me è un sacco di rumore per nulla. È molto rumore per nulla questa affermazione. Cioè, Marocchi non voleva sottintendere. Magari domani lo chiamiamo, Giancarlone. Il discorso è che non voleva certamente essere malizioso in questa sua uscita. Ma poi io adesso non voglio fare il sindacato degli opinionisti Sky, oltretutto lavoro per un'altra azienda, anche se sono tutti amici, sia Boban che Marocchi. Ma io penso che, insomma, gli opinionisti dicono cose, hanno una storia, parlano, e quindi è ovvio che parlano in buona fede, altrimenti sarebbero, cioè, come il discorso di Boban famoso sui festeggiamenti. È uno che fa l'opinionista da 15 anni, ha fatto il grande calciatore al Milan che è probabilmente la sua squadra di cuore in Italia, gliele canta in maniera cruenta ogni settimana. Se dice una cosa è perché la pensa, poi si può non essere d'accordo. Qui non credo che Marocchi volesse essere malizioso, credo che volesse dire una cosa che ci può stare, ma che secondo me ci sta anche contro il Napoli. Sì. Nel senso che ci scontro le grandi squadre, può succedere che il livello di inconscia demotivazione, da un lato ci può essere la voglia di fare l'impresa, dall'altra ci può essere, soprattutto se le cose si mettono male subito, un sentimento di tanto la salvezza non te la giochi contro il Napoli, sì, e contro la Juve, sì. Ma secondo me vale per tutti e due i casi. Certo, cioè, non vale soltanto per gli avversari. Andiamo da Francesco o da Antonello? Francesco. Antonello, Francesco Perugia, salve, buongiorno. Dica. Grazie per la convocazione. A lei. Volevo intervenire sulla questione Roma e sul rumor che è uscito anche in questa trasmissione circa il fatto che si allenassero un pochino meno e con un pochino meno intensità sotto Rudy Garcia i giocatori rispetto alle altre squadre. Volevo capire, secondo voi, come l'allenatore con questa esperienza internazionale abbia potuto incorrere in uno sbaglio del genere. Non credo, cioè, tutto nasce da una frase di qualche tempo fa di Burdisso, secondo cui a Roma si lavora poco. Non era, Burdisso ha lasciato Roma da qualche tempo, non era riferita ai metodi di lavoro di Garcia. Credo che qualcosa sia successo dal punto di vista della preparazione, invece. Io credo di sì. Questa voce che, insomma, a Roma ci si alleni poco, una voce che dura, che c'era tanto tempo, insomma, che poi le certezze non ci sono, insomma, noi giudichiamo quello che vediamo in campo. Questa stagione e quella scorsa è cambiato, sono cambiati i preparatori, ma non mi sembra siano cambiati i risultati. Questa squadra, secondo me, non è costruita benissimo, ha dei grandi talenti, ma non è costruita benissimo. Ecco, prima lo zio diceva: l'Inter comunque quest'anno è partita con un'idea. Sì. È partita, secondo me, da un punto di partenza più basso, però è partita l'idea di blindare la difesa, di fare un centrocampo muscolare, di affidarsi a un po' di creatività e di talento davanti. La Roma è una squadra strana, perché è una squadra che ha delle grandi qualità, ha dei grandi giocatori, ha dei grandi singoli, ma anche delle falle abbastanza impressionanti. Certamente alcune cose sono successe, cioè, rispetto alla Roma meravigliosa di 2 anni fa, Strootman praticamente non l'abbiamo più visto. Chiaro. Castan ha avuto quello che ha avuto e adesso è tornato con, ovviamente, oggi sentivo potrebbe darlo in prestito alla Roma per vedere se giocando con continuità riesce un po' a ritrovarsi. Ci potrebbe stare questo ragionamento, no? Al di là del fatto che Castan è una di quelle storie che mi tolgono qualsiasi dialettica, nel senso, certo, che di fronte a un ragazzo che ha vissuto quello che ha vissuto, c'è stato fra l'altro anche l'altro giorno il tweet risposto, cioè, alla fine di che stiamo parlando? No, hai causato il rigore e chi se ne frega. Però è ovvio che è un giocatore, magari all'inizio della stagione ci si è illusi che Castan potesse tornare da subito a certi livelli e non è stato così. Quindi è un insieme di elementi. Certamente punto di vista fisico non mi sembra la Roma stia bene, questo è indiscutibile, e non bastano 3 giorni a Spalletti per risistemare le cose. E Garcia, se vuoi, ha l'alibi, l'attenuante, che era stato delegittimato cambiando gli preparatori. Quindi questo sì. Una serie di pasticci a ripetizione. Antonello, provincia di Olbia. Buongiorno, sono tifoso milanista. Volevo milanista? Chiedere... Sì, milanista. Sì. Innanzitutto grazie per la convocazione. Eia, grazie a te. Volevo chiedere perché ci siamo fatti scappare Saponara così frettolosamente. Secondo me sarebbe stato... Io ho la paura che vada dalla Juve. Niente, che Saponara sì. Ha trovato la sua dimensione in una squadra che lo fa giocare, perché sì, è una paura fondata, spolverava l'altro, sì, fondata me, perché finché spolverava la panchina al Milan, non so, come Cristante non serviva a nulla. Sì, ma tutto si lega all'ansia della prestazione e all'arma a doppio taglio di essere in un grandissimo club come il Milan o come l'Inter, insomma, cioè, e giocare in uno stadio come San Siro. Molti giocatori sono stati bruciati, alcuni sono stati bruciati perché non erano all'altezza, altri, e forse è il caso di Saponara, sono stati bruciati con un pochino troppa velocità perché non erano forse ancora pronti, ma in realtà in prospettiva, ecco, la Juve da questo punto di vista era numero uno, perché la Juve ha una politica, una rete, un gioco d'anticipo sui giovani, quello che sta facendo in questi giorni ancora una volta è straordinario, i rapporti privilegiati che ci sono con il Sassuolo, tutto il mercato dei giovani, lo stesso Trotta che potrebbe rientrare in futuro nel giro. Sì, ci sono strategie ben precise. La Juve controlla decine di giocatori, i giocatori più talentuosi d'Italia li prende prima degli altri e poi li manda in giro a farsi le ossa da altre parti, quindi da questo punto di vista bisogna... È la politica perfetta. Il Milan ha fatto un'altra politica in questi anni, io non me la sento di dire che la colpa sia di Galliani o soltanto di Galliani, perché Galliani è anche il dirigente di questi 25 anni di storia rossonera che sono i più lucenti nel mondo del calcio mondiale, e perché poi comunque recentemente Galliani è anche quello che ha preso Thiago Silva, che ha preso Ibrahimovic, che aveva preso Pato, che aveva preso Tevez, possiamo fare una lunga storia. Quindi non, è anche però un sicuramente, materiale Galliani. Sicuramente in certi momenti il Milan ha scelto più le figurine, più il colpo ad effetto, più il marketing della programmazione. Certo, è chiaro che se prendi 10 Rugani, alcuni li giri, altri li provi, altri li smisti, altri è meno attraente che se prendi Ronaldo o Ronaldinho. Certo, certo, qualcosa ti rimane. Però alla fine qualcosa ti rimane. Nando Orsi, buongiorno. Ciao Nandone. No, buongiorno a voi. Come ciao, va? Luigi, come va? La solitudine del portiere, sì, quella è una tristezza infinita. Cresci anche con mentalmente cresci in un altro modo. Ah, sì? Beh, certo. Come un tennista sei un po' disturbato. Che il portiere deve essere un po' pazzo, invece secondo me è proprio uno che deve ragionare, per contrario. Ci sono dei luoghi comuni, tipo che il portiere non può fare allenatore, invece non è vero, perché nella sua carriera ha visto a 360 gradi quello che succede in una partita. Sì, questo sì. Ma soprattutto il portiere è lì. C'è la maglietta diversa dagli altri. Quando entrano tutti, uno dice chi è quello, chi è quell'altro, però il portiere lo riconoscono subito. No, ma è vero, ed è anche quello che se sbaglia non c'è rimedio, non c'è rete. Quindi... L'unico che sbaglia non c'è rimedio. Senti, Nando, stavamo parlando della Roma, in parte anche del Milan. Abbiamo forse capito già da subito che il problema della Roma non era Garcia, ma poi soprattutto che mi ha sorpreso, ne parlavo anche ieri con Pierluigi, nella partita con il Verona, è stato il fatto che non sia cambiato nulla nemmeno dal punto di vista dell'atteggiamento dei giocatori. Cioè tu ti aspetti almeno, lascia stare un giorno di allenamento, 2 giorni di allenamento in cui non puoi fare nulla, però emotivamente qualcosa può succedere. Invece stesso film, compresa la sigla, la cornice e la colonna sonora dei fischi. Beh sì, io sono partito da un presupposto che è vero che la Roma ha un buon organico, è tutto a posto, è vero, ha buoni giocatori, all'inizio dell'anno tanti l'hanno messa come una delle pretendenti allo scudetto. Io penso una cosa, penso che questa sia una squadra con dei giocatori che non sappiano muoversi, nel senso che tu prendi il centrocampo della Roma, presi uno per uno, tu hai Pjanic, De Rossi e Nainggolan. Sono 3 giocatori secondo me che in un centrocampo di grande livello, perché sono bravi, così come gli attaccanti, quando tu hai iniziato l'inizio dell'anno, che hai preso Dzeko, hai preso Salah, hai preso Iago Falche, hai tre centrocampisti così, hai dietro Manolas, ok? Poi puoi sbagliare. Però sono un anno e mezzo che la Roma praticamente vince poco, ma poi vince pareggia anche non facendo grandi prestazioni. Cioè, secondo me bisogna partire dal fatto che questi sono giocatori che spesso non sanno quello che devono fare. Sì, è vero. Questa cosa che la Roma pareggia molto è vera, non è un dettaglio. Nel senso che nel crollo, nel calo evidente della seconda metà della stagione scorsa c'era proprio questa tendenza. Raramente abbiamo visto, anche nel momento più difficile, la Roma naufragare. Parlo della seconda parte del campionato scorso. Sì. Però spessissimo l'abbiamo vista non riuscire a vincere le partite, non riuscire a imporre il suo gioco anche contro squadre molto piccole. Esatto. Ed è la stessa cosa che succede adesso. E mi fa pensare che ci sia una mancanza di creatività? Sì, ma perché poi alla mancanza, diciamo la verità, oltre alla mancanza di un attaccante che risolve i problemi, perché... Sì, però Pierluigi, quello che voglio dire, no? Ma tu vai a fare il confronto con Paoletti del Genova. Sì. Paoletti del Genova lo mettono in condizioni, gli fanno 30 cross, lo mettono in condizione di fare delle cose che lui sa fare e poi dopo fa gol. Ma quando tu hai nella Roma, no? Il miglior giocatore della Roma quest'anno qual è stato? Che adesso non gioca più e che volevano darlo via a fine anno, a inizio dell'anno, Gervinho. Mm-hmm. Gervinho ha risolto tantissimo problemi della Roma, giusto? Ma Gervinho è un giocatore anarchico, così come lo è Salah. Sì. Quindi è ovvio, quando tu hai due giocatori anarchici che devono servire uno come Dzeko, che non è che si crea il gol da solo, perché io penso a Bacca, il gol di Bacca di domenica, è vero che la palla lunga, ma Bacca poi se l'è creato il gol, perché è partito, certo, sulla fascia, è entrato, è rientrato, cioè ha fatto Dzeko una cosa quello non lo fa. Dzeko quello esatto, non lo fa, giocatore diverso. Dzeko lo devi servire. Esatto. Non c'è che Paoletti adesso, non è una bestemmia. In questo momento è più forte Paoletti, poi in assoluto è più forte Dzeko ad oggi. Però in questo momento segna di più Paoletti. Non l'ho fatto a caso questo nome. È vero. Cioè, se devo pensare a un centravanti italiano, adesso che devo dire che è straordinario, io penso a Paoletti. Sì. Perché anche se si fanno andando molti discorsi sulla nazionale, secondo me prematuri. Perché è un giocatore che stiamo scoprendo adesso, che ha fatto una lunga gavetta, che ha 27 anni. È vero che in una competizione breve devi sfruttare la scintilla, però andiamoci piano con le candidature, secondo me. Stiamo un attimo in linea, Nando, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque, chiarito l'argomento Inter prima con lo zio Bergo. Tu sai che abbiamo la coda degli ascoltatori, 80024, sì, 00024, stiamo mettendo i record. Adesso li sentiamo, stai tranquillo. La domanda è che faccio a te Pierluigi e a Nando Orsi al telefono. A questo punto, Roma e Fiorentina dove devono andare? Cosa devono pensare? Io penso che la Roma abbia più talento della Fiorentina e quindi penso che qualche possibilità in più sia anche più profondo un po'. Sì, io penso che la Roma abbia il dovere di pensare al terzo posto. Sì. La Fiorentina pure, però delle due secondo me, anche se la Fiorentina ha fatto nettamente meglio fino ad oggi ed ha una classifica migliore della Roma e non escludo che arrivi davanti alla Roma, secondo me è quella che ha più la possibilità di fare un girone di ritorno, cioè di risistemare le cose, è la Roma. La Roma paga questa quantità industriale di pareggi, di partite in cui non è riuscita a tenere il risultato che si era già sbloccato, perché poi c'è anche questo aspetto. Il pareggio di Torino, vabbè, il rigore non c'era. Il pareggio di Bologna, vabbè, pioveva. Il pareggio col Chievo, la tecnologia. E ce n'è sempre una. Il pareggio col Milan, in realtà poteva essere pure una sconfitta per quello che si è visto nel secondo tempo. Il pareggio col Verona, cioè mi sembra che è una situazione che si ripete e appunto togliendo 2-3 pareggi, non dico 5, 2-3 di questi 8 pareggi che ha fatto la Roma, hai già una classifica quasi da scudetto. Detto questo, una squadra che vince una partita nelle ultime 11 fra campionato e coppe non va da nessuna parte. Se Spalletti gli ridà un'idea di gioco, secondo me la Roma può puntare al terzo posto. Nando, sei d'accordo? Aggiungendo il discorso Fiorentina e aggiungendo se vuoi anche il discorso un'inspiegabile contestazione ai Della Valle di ieri al ritorno da Milano. Sì, ma c'è un problema di fondo, no? Che tutte e due le squadre, la Roma è condannata a vincere, la Fiorentina è diventata condannata a vincere perché la Fiorentina non era partita con questi presupposti. Poi dopo tu cominci il campionato, ti metti in una posizione di primo piano, la squadra gioca molto bene, secondo me Paolo Sosa è un grande allenatore, però la differenza con la Roma è che la Fiorentina non è un organico. La Fiorentina ha 12-13 giocatori ed è costretta sempre a giocare bene per vincere. Uh-huh. E non è ricambi adatti. quando la Fiorentina l'ha cominciata a scoprire, e io vedo le ultime due partite con Milan e Lazio, dove la Fiorentina, dove le altre squadre hanno cominciato a non giocare, sia Milan che Fiorentina, si sono messi dietro, sì, sì. Non hanno fatto verticalizzare e gli hanno sterilizzato il possesso palla e gli sì. hanno sterilizzato sia la profondità che il possesso palla, e poi sono ripartiti in contropiede, hanno una difesa che non è straordinaria perché Roncaglia, Tomovic non sono veloci, gli mancava Gonzalo, mancava Gonzalo, mancava Badri, che è un altro giocatore importantissimo, esatto. Mentre la Roma è condannata a vincere, però in una situazione dove secondo me ci sono tanti equivoci, a partire dal fatto che Garcia è stato depotenziato il primo luglio, e da lì è partito. Ma l'altro errore è stato il 20 di dicembre, finita la partita con il Milan, mi sembra. Beh, c'è stato un ritardo. Spalletti è arrivato il giovedì, ha allenato il venerdì, pensando che l'8 dicembre. Sì. Nando, l'8 sì. dicembre, dopo Roma-Bate, secondo me, o decidi, visto che passi il turno in qualche modo, certo. che Garcia è il tuo allenatore, e allora urbi e torbi, mandi un messaggio alla nazione, alla squadra, all'ambiente, alle radio, e dici: questo è il nostro allenatore e lo sarà fino alla fine dell'anno e probabilmente discute. Anche dopo, visto che ho un contratto fino al 2018, e gli ridai forza, o se no a quel punto la scelta andava fatta subito, sì, perché si è perso un mese. Certo. No, ma poi il fatto che secondo me la proprietà ha pensato che la partita col Verona fosse una passeggiata di salute, uh-huh. e quindi l'allenatore è arrivato il venerdì ad allenare la squadra, mentre poi nel campionato italiano sai benissimo che non è così. Certo, e, quindi, e l'altra cosa è che secondo me non erano... Loro volevano arrivare a fine anno, la Roma con Garcia, però alla fine non hanno più potuto. E quindi non hanno ripiegato su Spalletti, hanno preso un allenatore che sulla piazza è uno dei numeri uno, è ovvio. Però secondo me loro avevano un pensiero di arrivare a fine anno per poi decidere con tranquillità. Che è lo stesso pensiero che grosso modo ha il Milan. Grazie Nandone. Ciao Nando. Matteo, Franco, Carlo. Prima di Matteo, dalla provincia di Modena, io voglio sentire un altro estratto del professor Cassano. Ah, sentiamo. Sì, intellettuale, Gramsciano. Sì. Ma il problema è che mi sono rovinato, tra virgolette, da solo, perché sono sempre stato, come si dice a Bari, uno sfaticato che non ha mai fatto niente per rendere al massimo. Però io sono felice e contento così. Nella vita... L'importante è vivere felici, io son così. E poi ha frequentato pessime compagnie, cattive amicizie. Sì. Ma no, ma guarda che poi questo grande dibattito sul talento sprecato e sugli errori commessi da Cassano, sul quale siamo tutti d'accordo, pure io che sono suo amico, però insomma, ma lui è il primo a essere d'accordo, alla fine rimandano sempre a un concetto più complessivo sulla felicità, al senso della vita, quello che è realmente importante. Chiaro che avrebbe potuto e dovuto vincere molto di più, però poi c'è anche da chiedersi se quest'ansia da prestazione e da successo in generale nella vita di noi tutti poi diventi una chiave verso la felicità. È notte alta e sono sveglio. Si faccia una domanda e si dia una risposta. Matteo da Modena. Matteo, prego. Sì, ma una domanda. No, io volevo solo parlare. Lei è felice, Matteo? Cosa chiederebbe Matteo a Matteo? Ma sei Marzullo? Sì, ma tu. Notte alta e sono sveglio. Sei Marzullo. Calcisticamente scudetto alla Juve, salvezza del Carpi, come chiamo da Carpi, sarebbe l'apoteosi. Una delle due è possibile. È facile. Lo scudetto è molto più facile che la salvezza del Carpi. Però insomma, io l'ho visto il Carpi l'altro giorno con la Samp, insomma, mica male. Sì, ce la giochiamo fino grande spirito. Sì, questo sì. No, volevo parlare dell'Inter, però la squadra a mio giudizio stra incompleta, una società così assente, è un allenatore sopravvalutato. Beh, però a parte questo tutto bene, no? Cioè, tolte queste piccole critiche che gli hai fatto. Matteo, però sull'allenatore sopravvalutato non sono così d'accordo. È più bravo da manager che da allenatore. È bravo a fare tutte e due le cose, ed è proprio per questo che secondo me Mancini è un grande allenatore. Ma scusate, ma io non so, per carità Matteo, ognuno ha il suo parere, io non sono d'accordo su niente, nel senso, secondo me l'allenatore sopravvalutato o non sopravvalutato non lo so, però insomma è un buon allenatore, ha dato un'anima e ha dato una classifica di un certo tipo a questa squadra. La squadra sicuramente è migliorabile, però una sua fisionomia ce l'ha, non sta crescendo dal punto di vista del gioco e in questo momento paga. La società il suo l'ha fatto, cioè Toir è uno che i soldi l'ha spesi e ha dato fiducia e ha delegato all'allenatore, quindi certo, senza entrare certo. nelle questa, scelte. Questa è la chiave. E quindi io ammetto Ir piace. Arrivo a dirti, ammetto Ir piace. Poi lo so che c'è la storia lì del mutuo, no? del prestito che si è autofatto. Però mi sembra una scelta di grande intelligenza quella di prendere comunque un allenatore capace di catalizzare l'attenzione. Un manager ha preso un Ferguson di Chiesi ed ha dato ordine a quel caos che era l'Inter. Stesso discorso potrebbe essere praticabile per la Roma, ma Spalletti secondo me non ha le stesse caratteristiche. Un altro cassone, poi andiamo da Franco, cosa ne dici? Vai. Ma il problema è che se trovo uno rigido non mi va bene, se trovo uno molle mi addormento, non mi va bene mai niente. Il problema è che l'ho capito troppo tardi, a 33 anni l'ho capito che devo andare sulla retta via e seguendo le regole. Il problema è che non l'ho mai fatto nella mia carriera, ma sono contento di aver fatto questa carriera. A proposito di allenatori, sei troppo rigido mi gira le palle, sei troppo morbido mi addormento, me ne va bene uno. Abbiamo un minuto per Franco. Pronto, buongiorno, sono appunto Franco da Busto Arsizio, sì. È un piacere parlare con voi. Volevo anch'io, io sono interista, però sono d'accordo col cugino juventino, perché anche per me Mancini è sopravvalutato. Avevo telefonato il giorno dopo dell'esonero di Mazzarri, tutti felici e contenti, io ero l'unico che avevo telefonato lì in radio dicendo invece che per me, non dico che si passava dalla padella alla brace, però non si migliorava più di tanto. Insomma, passare dalla padella alla brace tra un campionato anonimo in cui sei finito a 1000 punti di distacco. L'anno scorso ha fatto meglio Mazzarri, se guardiamo i numeri. L'anno scorso. Quest'anno Mancini sta facendo un gran lavoro. Cioè, ragazzi, l'Inter, io non so quanti tifosi dell'Inter avrebbero non avrebbero firmato un terzo posto in questo a questo momento, punto, dopo 20 giorni, con la possibilità ancora di vincere il campionato. Dai. Siamo onesti. Ci fermiamo per il torniamo subito. Ciao Parto, ti voglio bene. Tutti convocati. Gira il mondo, gira e sempre più vorticosamente. Difficile capire tutto quello che accade, ma state tranquilli. A fine giornata vi racconto cos'è successo in Italia e all'estero, con i servizi della redazione e con gli ospiti in diretta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, con Roberta Giordano. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Che dire, arrieccici. Tutti convocati, 800 24 00 24. Pierluigi Pardo oggi è qui con me in studio. Diga. Carlo, provincia di Fermo, buongiorno. Buongiorno, tutti mi dicono grazie per la convocazione e io vi dico grazie per avermi fatto entrare in campo, perché era un bel pezzo che mi stavo scaldando. Sì, lo so. Si sente che sei pronto. Sono pronto. Senti, intanto saluto Carlo, mio omonimo, e saluto Pier. Ciao. Io vi ascolto da una vita, veramente. Oggi vi devo dare una diretta di orecchie, posso? Sì. Devi, ma... Allora, alla settima o l'ottava giornata voi già... Ma io lo dico in tono scherzoso, avevate già segnato lo scudetto, diciamo un bel 70 alla Roma, un 20 alla Fiorentina e il resto era fra Napoli e Lazio. No, ti correggo. Sosteniamo la tesi Napoli dal 21 parlo settembre. Parlo di Napoli. Adesso devo essere sincero. Se la Juve va avanti così è molto molto dura, però si tiene la linea. Sono già orgoglioso della profezia, nel senso che comunque Napoli in questi tre mesi è cresciuto alla grande. Quindi tu tira pure le orecchie, Carlo, ma per la cronaca è così. Vabbè, però... Io sono milanista, per cui non mi andrebbe più neanche di parlare del Milan, perché non mi ritrovo in questa squadra, anche se ho voluto sti giorni per aver battuto un mio coetaneo, Diego Della Valle. Per cui, però ecco, già oggi avete detto che l'Inter sicuramente, quasi sicuro, farà terza, ma io penso che fino all'ultima giornata o almeno le ultime due o tre non si potrà decidere adesso quello che può succedere, o sbaglio? Ma non sbaglia, ma dalle mie parti in dialetto milanese, in dialetto lombardo, che parlo, conosce perfettamente, si dice sicure le mort. Sicure le mort, traduco, vuol dire che la sicurezza è morta, cioè è il seme del dubbio che alberga nella testa di ognuno di noi. Lei tra l'altro è delle zone di Della Valle, perché è di Fermo, no? Sì, sì. Ah, roba seria. Roba seria. Di dove esattamente? Proprio di Fermo? Io sono di San Delfino a Mare, provincia di Fermo, Diego della Valle, Casette d'Erte, provincia di certo, Fermo. Certo, ma sono stato a Sant'Elpidio a una serata 2 mesi fa, bellissimo. E non hai incontrato Carlo? Non lo so, stavo lì, c'è stato un premio, abbiamo fatto una bella serata. Bene, bene, complimenti. Va bene Carlo, complimenti. Comunque sicuro è morto. Zona di grandi calzaturifici, di grande moda, Filottrano, roba sì, seria, roba sì, seria. Vabbè. Sì, sì. Comunque no, sicurezze non ci sono. E tornando al calcio, andata a tre, vuol dire... Questo lo sapete. Precisa da tre, cioè che il preciso è tornato indietro. No, gandata tre vuol dire non è morto, sicuro è morto e preciso lo ha seguito. Gli è andata a tre. Ti ho dato questa lezione, questa pennellata di... Beh, straordinario. Va in bacia su una Lorgen, eh? La sai, va in bacia su una Lorgen? La sai l'origine? No. Pare che a Baggio, zona di Milano, non Roberta e neanche Dina, a Baggio, zona di Milano, ci sia un organo disegnato e quindi pare che i milanesi dicano vai in bacia su una Lorgan, come dire vai a Baggio a suonare l'organo che non c'è. Cioè, dipinto ecco. Sul muro. Eccezionale! Roberto Rimini, buongiorno. Sì, ciao ragazzi. Come ciao. Va? Mi esprimo, tutto bene, sì. Okay. Oggi c'è il sole, quindi non lamentiamoci. Che spettacolo, guarda, manca poco. Io già sto in clima si Bermuda, esagera. Sono già in clima estivo. Già, ragazzi, scavalliamo gennaio. Al Barrumba, vi aspetto al Barrumba per una diretta insieme. Ragazzi, io mi esprimo su Mancini. Noi del Barrumba siamo tutti interisti e anche ieri sera abbiamo fatto le due, continuando a parlare di Stomanzo. Io mi sono espresso in questa maniera qui alla fine. Mi tengo lui perché di meglio anche all'Inter adesso non potrei neanche avere. Chi verrebbe all'Inter di meglio? Mazzarri, Gasperini, Stramazzoni, questi. Questa è l'appetibilità dell'Inter in questo momento, quindi mi tengo sto manager allenatore con i suoi limiti. Certo che se dopo 20 giornate avesse dato un minimo di gioco per far arrivare un pallone però ai campi... Però posso chiederti una cosa, Roberto. Se ad agosto ti avessero detto che dopo 20 giornate eri a 4 punti dalla prima in classifica, non avresti firmato? Io ci firmo per i 4 punti, come firmo per il terzo posto, però ragazzi cerchiamo di essere obiettivi. Io ho partito in terza categoria, no, quello di Mancini, però riconosciamo anche, io le partite le ho viste tutte, sono stato anche San Siro, sì, non gioca riconosciamo bene, non gioca bene. Mazzarri ne avrebbe avuti 30, con un po' meno sedere e con un Andanovic che l'anno scorso un po' più indeciso sul contratto, un po' più indeciso su quale, questa Inter, faceva qualche errore in più, quindi diamogli anche dei punti in più, perché tolto col Napoli che quel pareggio ci stava tutto, non ha dei punti in meno per le prestazioni fatte. Chiudo il discorso per andare alla mia domanda sul mercato. Bene Ljajčić per Shaqiri, bene Perisic per Podolski, bene Murillo e Miranda per Ranocchia e Jesus. Il buco grosso, i problemi grossi dell'Inter sono nel gioco, perché l'investimento più grosso su Condombia, 35 milioni, non sta pagando. Quali con i 15 milioni di euro che sto leggendo di Guarin, che sembra sia andato, secondo voi possiamo andare sul mercato a prendere quale centrocampista cedibile per migliorare il nostro gioco? Beh guarda, grazie ragazzi, scusate, grazie a te, ma io la giro subito a Luca Marchetti. Niente, come stai? Niente. Come no, tutto bene. Tutto è il momento dell'Italia centrale, adesso andiamo a Terni dal signor Luca. Come va? Tutto bene, voi tutto bene, mi sembra tu stai ottimamente bene. C'ho una voglia di ciriola, guarda, come voglio dire. Guarda, la porto su. No, non posso, il carboidrato non si può. Sì. Ah, beh, certo, tieni la linea. Perso 6 kg, Marchetti, poche chiacchiere, poi 6 kg miei sono come 1,5 kg tuo per motivi proprio statistici, per cui siamo ancora oltre i parametri di Maastricht, però come si viaggia, come risponde questo metabolismo. Allora, parliamo di mercato, vai. No, si diceva, oggi è il giorno di Guarin che si veste da cinese, no? 18 milioni, chiedeva l'ascoltatore. E, tra l'altro Cerci visite mediche contratto a Genova, quindi anche questa storia è finita. E, l'Inter cosa fa con questi soldi? Secondo me va su Soriano, che è un giocatore che piace molto a Mancini, ci sono stati già diversi approcci anche a Mihajlovic sì, piace anche a Mihajlovic, ma i soldi in questo momento ce li ha Mancini. ce li avrà Mancini, perché con Guarin sta andando tutto in maniera piuttosto spedita. Da quello che sappiamo noi, il giocatore ha accettato l'offerta dei cinesi, che hanno aumentato fino a 7 milioni di euro all'anno, più o meno, forse per più lui, che meno, l'ingaggio? Per lui, e circa 18 all'Inter. Quindi mamma con questi soldi qua l'Inter può andare all'assalto. Non cercano giornalisti, eh? No. No, ci ho pensato anche io, ti devo dire la verità. Francamente, tutto rispetto per Guarin, sì, sì, sì, sì. Insomma, anche team manager, addetti alle magliette, no. Come? No, dicevo anche team manager, addetti alla lavanderia. Sì, cioè, possiamo anche riciclarci facilmente. Addetti stampa. Addetti stampa. Parliamo cinese, sì, tanto sì. È facile. Sì, sì, ma comunque secondo me con quei soldi puoi permetterti anche un traduttore. Sì, sì, sì. No, però ecco, l'Inter secondo me va su questo tipo di soluzione qua, posto che poi magari un pensierino in attacco lo possa anche fare, però anche lì c'è sempre il passaggio obbligato dell'Inter, no? All'inizio del mercato l'Inter aveva necessità di recuperare 7-8 milioni di euro e con la rescissione consensuale del contratto di Vidic buona parte di questi soldi li ha recuperati. Un po' verranno dalla cessione di Guarin, gli altri possono essere reinvestiti. Poi c'è la seconda regola fondamentale: uno esce, uno entra. Insomma, esce Guarin, può entrare un centrocampista. Per far arrivare un eventuale attaccante c'è bisogno che esca un attaccante, e lì la vedo un po' più difficile, sì. Più complicata. Sì. Senti, cosa fa la Roma? Sembra a caccia di un centrale, di un esterno, riesce a accontentare Spalletti finalmente? Beh. Si diceva, si sentiva, leggevo su Sky anche, di Castan possibile prestito. Sì. Beh, se Castan viene prestato per cercare di fargli recuperare la confidenza col campo, la Roma ha bisogno almeno di due centrali difensivi. Ne cercava uno indipendentemente da Castan. Certo. Io credo che a questo punto un paio servano, magari uno che può stare in panchina e l'altro che invece possa essere a disposizione dell'allenatore per giocare, insomma, da titolare. In più c'è che la questione degli esterni offensivi, i nomi sono sempre quelli, Perotti, Adriano, e Shaarawy. Poi c'è Adriano, esterno difensivo. Adriano, esterno basso. Ti dico che i cinesi, che sono sempre gli stessi, hanno preso Luis Adriano, prenderanno Guarin e adesso sono attesi a Roma per trattare Gervinho. Ah, e secondo quindi me se lo portano a casa. Dello Yang Su Suning potrebbe essere completa. Beh, sì, da quello che ha detto anche Spalletti mi sembra evidente che sia il giocatore che sta spingendo anche per andare via. Lui addirittura ne vorrebbe due come Gervinho, invece mi pare di aver capito che anche il giocatore si è allettato dalla possibilità di andare a guadagnare discrete cifre anche lui. Sinceramente non so dirti quanto può essere il contratto per l'attaccante della Roma, però insomma, se per un centrocampista come Guarin saranno a tirare fuori sette, almeno sette andranno pure a lui. Ma sette non si legano, certo, a nessuno, solo a noi non ce li danno. Vabbè, però discorso di prima. No, beh, è chiaro che questi sono dei signori che drogano il mercato, ma fortunatamente per il calcio italiano. Poi ha ragione Nando Orsi, secondo me, su Gervinho, nel senso che poi comunque alla fine, se guardiamo questa stagione, Gervinho ha fatto anche delle cose importanti nella prima parte, ha dato anche dei colpi di un certo tipo. Quindi ha sicuramente dato un contributo. È un giocatore abbastanza anarchico, non è un giocatore né lui né Salah perfetto per far fruttare le caratteristiche di Dzeko, nel senso che sono due che pensano più al tiro, più al dribbling, più alla conclusione personale piuttosto che al cross. Non ce l'hanno proprio la cultura del cross per no. L'attaccante. C'era una statistica che avevamo tirato fuori durante la stagione per cui se non giocava Gervinho la Roma non segnava. Sì, sì, quindi c'è anche è vero, considerare che... questo, Però d'altronde se ti danno dei soldi per cui tu fai anche una plusvalenza sul cartellino oltre a riempire d'oro lui, diventa difficile riuscire a trattenerli. Insomma, il calcio italiano in questo momento si trova qualcuno che offre, ma sarebbe sbagliato, per qualsiasi Luca, tipo di giocatore. Sarebbe semplicemente sbagliato, sarebbe una inutile controtendenza, cioè tanti soldi per il giocatore che a te non serve grosso modo più. Questo vale per Guarin, ma vale anche per Gervinho. Il giocatore è contento perché comunque se accetta di scendere dal carro del calcio maggiore e vivere questa nuova avventura per le solite ragioni di vita, no? Sì, scelta di vita, l'amore per la cultura cinese, gli involtivi siamo, di Navera, siamo tutti contenti, sì. Siamo tutti contenti. Ma infatti faccio anche questo tipo di considerazione. Eder pure era stato contattato da squadre cinesi per andare via e lui ha detto no, indipendentemente da quello che posso guadagnare ho l'europeo da conquistarmi, voglio rimanere in Europa. E mi sembra una scelta coerente. c'è anche invece chi preferisce andare a prendere più soldi possibile, e allora sai, su questo tipo di giocatori un progetto ce lo costruisci in maniera un po' più complicata, perché evidentemente le motivazioni non sono quelle soltanto di far bene in campo, ma soprattutto quelle di incrementare il conto corrente in banca. Non me ne voglia chi va in Cina, scelta assolutamente legittima, però è una scelta completamente diversa da quella che magari un allenatore si aspetterebbe, ecco. Fa parte delle valutazioni assolutamente legittime di una persona. Senti, ma la Fiorentina, che è un po' nel mirino della contestazione, incomprensibile dal mio modo di per il mio modo di vedere e da questa postazione, la Fiorentina fa qualcosa per rinforzarsi? La Fiorentina fa sicuramente un esterno offensivo, che dovrebbe essere Teglio, che è del Barcellona ma gioca nel Porto. Sì, perché l'accordo col giocatore c'è già, bisogna soltanto rifinire l'accordo con il Barcellona, ma in realtà la Fiorentina erediterebbe la situazione contrattuale che il giocatore aveva col Porto, quindi prestito con diritto di riscatto a 8 e contro riscatto a 16 in favore del Barcellona. Quindi se il giocatore dovesse fare molto bene e il Barcellona volesse riscattarlo, la Fiorentina farebbe addirittura una plusvalenza di 8 milioni in 6 mesi, oppure si prende un giocatore che comunque hanno scelto a 8 milioni di euro, che è una cifra ragionevole. Sì. L'unica cosa che bisogna mettere a posto adesso è il rapporto fra Porto e Barcellona, ma sono questioni burocratiche, voglio dire. Per quanto riguarda la difesa, l'obiettivo numero uno rimane sempre Lisandro Lopez. Avanti tutta su Lisandro Lopez, anche fino all'ultimo giorno di mercato, sicuramente il giocatore che preferisce Paolo Sosa. A noi ieri risulta che sia stato l'ennesimo incontro con l'agente. Lì dipende molto da come sta Luisao. Cioè, se Luisao è recuperato bene dall'infortunio che ha avuto al braccio, allora il Benfica potrebbe pensare anche di lasciare andare il giocatore che comunque ha chiesto la cessione prima di tornare ad essere titolare, altrimenti magari ci saranno delle operazioni last minute per la Fiorentina, che comunque dei difensori ha bisogno, perché sono pochi a livello sono numerico. Sono contati. Se non hai altre domande per il professor Marchetti, lo salutiamo. Lo saluto. Dove è andato? Ma aspetto tu. Io aspetto il microfono. Ma non aspetto il microfono, è giusto. È un chiaro segnale. Si comincia così. Esatto. No, niente. Io sto pensando alle cirioli da 10 minuti. Ti saluto, ti abbraccio, ti voglio bene. Ciao Luca. Ciao, vivo ogni tanto. Vediamoci. Sentiamoci. Ci siamo sentiti al telefono 2 giorni fa. Sì, esatto. Andiamoci a fare delle fettine così. Ma sei a dieta? Appunto, della bresaola. Bresaola e frutta. Ciao Luca. Ciao. Non male quel 14 in maglia bianca. Ah, sì. Facciamo pubblicità a Rai Sport 1 in questo quel momento. 14 c'è in maglia bianca dell'altro ieri, 1974. Sì. Senti, anche Neskens che si è fatto male, adesso sta recuperando l'infortunio. Anche quel 13 non è male. Posso farti sentire 3 voci? Sì. Allora, 3 voci da Podio, mi hanno divertito molto. Prima di andare da Enrico da Treviso e poi parlare di un'altra cosa. Allora, le voci che più mi hanno divertito nell'ultimo weekend, cominciare da Urbano Cairo e dall'aereo per Immobile. Quando è arrivato a Torino ed è sceso dall'aereo, che gli ho anche preso un aereo privato per tornare da Siviglia, pensa te, quando l'ho detto a mia moglie, dice: ma come, noi viaggiamo in economica e Ciro lo fai viaggiare in prima classe, cioè in aereo privato. Dico, sai com'è, i calciatori sono gente particolare. Già, i calciatori sono gente particolare. Grandissimo Urbano, è veramente grandissimo. Poi c'è il solito siparietto, Mihajlovic, Berlusconi, una storia che continuerà. Berlusconi poteva fare 2 mesi fa queste dichiarazioni, così avreste risolto un po' i problemi prima, Sinisa. No, ho visto Romagnoli. Meglio tardi che mai. E poi c'è Spalletti emozionato prima della delusione. Ho sentito in conferenza stampa che tu in allenamento a un certo punto ti sei fisicamente eccitato. Ecco, volevo sapere se ti era successo anche oggi, se no mi preoccupo. No, oggi no, perché tu non hai quelle qualità che hanno avuto. Bisogna che ti migliori un pochettino, vedi di usare. Vengo a scuola da te. Fisicamente eccitato. Siamo al top, come direbbe Luciani. Arriva Luciani. Non lo so, però c'è Enrico da Treviso. Carissimi, dica. Senta e vado. Come allora, va? Niente, io volevo parlarvi con Mancini. Volevo darvi il mio parere. Allora, io credo, forse sembra un po' presuntuoso, ma che qualsiasi tecnico, dopo 5 minuti di partita dell'Inter, praticamente in tutte le partite di quest'anno, è in grado di dirvi che l'Inter non ha un gioco. E non ha un gioco né dal punto di vista della costruzione, né dal punto di vista difensivo, tanto meno. Beh, difensivo, no, difensivo, bisogna capire, intenderci cosa, sul concetto di gioco difensivo, perché secondo me è estremamente ben organizzata l'Inter, a dire del fatto che è una buona fase partire. Difensiva, no? Assolutamente, assolutamente. Parliamo di un'altra cosa, ti va, Pierino? Sì, senti sì. Questa. L'ho sempre rispettato a Orge, lui a me nelle ultime gare dell'anno scorso no, secondo me, e quindi speriamo che questo rispetto sia da tutte e due le parti, ecco. Ci sarà la stessa apertura nei confronti di Marquez? Non lo so, però fortunatamente Marquez non è nel team con me, quindi posso anche non darglielo. No, penso che finirò la stagione la mia carriera con la Yamaha, perché penso che sia giusto così. Quindi se nel caso volessi continuare, spero che mi dia la moto, ecco. Valentino Rossi, la nuova Yamaha, che al campionato dei lunghi coltelli, un paio di mesi ci siamo, Sei appassionato moltissimo anche tu l'anno scorso. Beh, l'anno scorso chi non si è appassionato? L'anno scorso non è stata alla fine neanche più moto, è stata proprio una saga, è stata una faida, un intrigo internazionale, un caso diplomatico, quindi ci ha appassionato tutti e credo che abbia... Come a volte succede, lo sport riesce a superare, no, i confini del puro aspetto tecnico, del puro aspetto agonistico, e diventa altro. E l'anno scorso è diventato altro. Roberto Ungaro, buongiorno. Ciao Carlo, ciao a tutte e due. Ciao. Senti, ciao. Dove andrà questa onda che è cominciata, no, non la onda, la moto, ma questa onda lunga che è cominciata l'anno scorso, dove ci porterà? Ci porterà una grossa incognita, perché i due galli nel pollaio sarà molto difficile gestirli, non ci sarà muro, però già ieri si è capito, io non c'ero fisicamente ma ho parlato con delle persone che erano alla presentazione e ci sono stati dei sorrisi obbligati, c'è stata un po' di tensione ovviamente, la cosa è superata, dicono, però ha lasciato il segno. Valentino, ma più che altro tutti si chiedono il dopo Valentino, cioè il dopo 2016, perché sai che scadranno i contratti, quindi il 2017 è la grande incognita. Cioè il problema è tenersi stretto Valentino, ma questo lo pensa non la Yamaha, la Dorna, il sistema motomondiale, perché via lui si spegne la luce. E quindi bisogna riuscire a fare in modo che lui rimanga patrimonio dell'umanità per Dorna e abbia un ruolo, magari allevando i giovani con la sua guerra 46 o facendo altro. C'era anche Paul Espargaró alla presentazione, che è già uomo Yamaha, lui è il rimpiazzo pronto. E Lorenzo, grosso punto di domanda per il 2017, Ducati è pronta, pare che ci sia già un'offerta, c'era stato l'abboccamento, quindi lui, anche lui dice vorrei finire Yamaha, ma la cosa è ben diversa rispetto a Valentino. E Yamaha ha fatto un precontratto con Vignales, e quindi questo fa pensare che sarà lui un po' l'erede. Sto andando avanti nel tempo, però si sta cercando di preparare il domani. Sono tutti preoccupati, il mondo Dorna, del dopo Valentino. Hanno ragione. L'abbiamo detto più volte, come via tomba, si è sciolta la neve al sole, non è più tornata. Sì, con i campi da sci fai l'innevi in modo artificiale. Qui è come se le resistenze sotto le piste da ghiaccio si fermasse la corrente, il ghiaccio non c'è più, cioè è finita proprio, è un problema questo. E quindi poi c'è il regolamento che cambia, ho parlato con Meregalli, che casualmente ho incontrato in aereo, io ero una presentazione di un prodotto, di una moto di produzione, e mi ha detto che sapete che il regolamento tecnico, ci saranno 2 litri in più di benzina, cambia la mappatura, la centralina uguale per tutti. Quando i piloti l'hanno provata la prima volta, siamo andati indietro di 6-7 anni. Però lì, dice, i giapponesi mettono la loro pezza e arriveranno a mettere a posto la moto. La grossa incognita sono le gomme, perché l'anteriore scappa, ha paura di cadere, non si fidano, non si sente la gomma, e questo devono risolverlo. Quindi, mentre la meccanica, gli ingegneri la mettono a posto, fattore gomma, grossa incognita per tutti. Ma tu in un secondo pensi sarà ancora un duello all'OK Corral? Cioè pensi che rivivremo l'anno prossimo quanto abbiamo vissuto quest'anno? Allora, cambieranno i regolamenti, i valori in campo, ma i quattro protagonisti saranno sempre loro. Io spero di rivedere quello che abbiamo visto l'anno scorso fino a un certo punto della stagione, nella correttezza, però ho paura, temo, perché l'anno scorso è stato veramente una congiunzione astrale, come abbiamo detto più volte, e vedere Valentino che vince subito dal Qatar, vedere adesso il 27 partono e vanno a Sepang e devono provare tante cose, la moto, devono cercare la direzione, l'anno scorso erano più avanti, però io... Ecco, posso farti una domanda? Nel senso che chiaramente Valentino è il più vecchio dei due, no? Quindi certo. In una dinamica normale dovrebbe essere quello declinante. Tutti questi cambiamenti di moto, il fatto che si deve ristudiare, no? Si deve quasi ricominciare da capo, può aiutare Valentino a, diciamo, a colmare questo gap fisico? Allora, lo può aiutare perché psicologicamente lui può assecondare la cosa, mentre non essere al 100%. Un Lorenzo, magari può andare giù di testa oppure può creargli uno scompenso anche a livello psicologico. Valentino, con la sua esperienza, col suo saperci fare in questo, sicuramente è la persona che può accusare meno il salto tecnico che c'è stato, che sarà all'indietro. E quindi da un punto di vista, sì, questo lo penso proprio, ma è così, Valentino da questo potrebbe trarne un vantaggio. Speriamo. Ma solo perché ha più esperienza. Grazie, assolutamente. Grazie Roby, a presto. Ciao. A prestissimo. Ciao Roberto Ungaro. Pier, prestissimo, anzi a domani. Sì, ci sentiamo domani al telefono. Ho già i brividi. C'è brividi. Brividi. Mi chiamo Pierluigi e non mangio carboidrati dal 29 dicembre. Anzi, basta. Grazie Giorgio De Luca, il nostro autore. Grazie a Giovanni Fernato in regia, Federico Bini in redazione. A domani. Perciò sai che vi dico, passate una bella serata. Lupi lupi sono finiti. Forse i tempi cupi. Ciao.